Gli speciali di GR24. Buongiorno da Anna Marino e buongiorno a Laura Laposta, caporedattore del Sole 24 Ore. Benvenuti a questo speciale di Radio 24 dedicato alle donne e al lavoro. In questa giornata ovviamente dedicata a tutti i lavoratori. Siamo qui per parlare di un equilibrio possibile tra le occupazioni femminili, tra la vita privata e la vita lavorativa. Tutto si misura con il tempo. Qualsiasi lavoro si faccia inizia con lo stesso suono. Ma poi bisogna fare i conti con gli orari per l'intera giornata, per bilanciare vita e lavoro, vita e famiglia, e questo è ancora più vero per le donne. Ma conciliarle si può? Senti, lo so che non sono affari miei, ma non posso non dire niente. Tu hai dei diritti che puoi far valere per riavere il tuo lavoro. Non lo rivoglio. Non lo vuoi? Ma ti piaceva? Eri sempre la prima ad arrivare in studio e l'ultima ad andare via la sera. È vero, ma non perché mi piaceva. E allora perché? Non lo so. La paura che potesse succedere qualcosa mentre non c'ero. Che lo studio sarebbe fallito senza di te. Con stacanovisti come te, mai. No, non ero preoccupata per l'ufficio. Credo che avesse a che fare con me, cosa mi sarebbe successo senza quelle persone da accontentare, senza scadenze. Erano queste le cose che mi tenevano insieme, forse. E senza sarei caduta a pezzi. Ma non sei caduta? Credo di no. Lo avete sentito, il film è In Her Shoes, se fossi in lei, un film del 2005 di Curtis Hanson con Cameron Diaz e Toni Collette. È la storia, buffissima, commovente, di due sorelle che non hanno null'altro in comune che la medesima taglia di scarpe, il 42. A parte questo, in fatto di valori, obiettivi e stile di vita, sono grandi amiche ma anche agli antipodi. Una è una donna in carriera e l'altra sempre in cerca di lavoro, ma alla fine uno screzio tra le due le allontanerà e permetterà loro di guardarsi dentro e di fare un bilancio, ognuna della propria vita e del proprio lavoro. Ma dal film passiamo alla realtà e vediamo quali sono i tempi di vita e di lavoro delle donne italiane. Ne parliamo con Laura Laposta, che ci dà anche una fotografia, un quadro del lavoro femminile in Italia, supportato ovviamente da dati, Laura. Sì, buongiorno Anna, a te e a tutti gli ascoltatori. Ma la buona notizia è che l'occupazione femminile in Italia sta crescendo in questo momento. E questo è un trend in atto dal secondo trimestre 2008 e l'Istat ha fotografato un quadro positivo nel quarto trimestre dell'anno che si è appena concluso, quindi un anno, un trimestre già caratterizzato dagli effetti della crisi. Naturalmente poi aspetteremo gli effetti sul primo trimestre 2009. Però si tratta comunque di un segnale positivo. Il problema però c'è, ed è che il boom è tutto concentrato sulla componente straniera di occupazione femminile. A guardare bene i dati, in realtà si vede che le occupate italiane stanno diminuendo di 28.000 unità nell'ultimo trimestre dell'anno appena concluso, mentre 140.000 straniere hanno trovato un lavoro regolare. A quel punto possiamo considerare che magari si tratta dell'effetto del decreto flussi, quindi tante straniere che lavorano in Italia sono in fase di regolarizzazione, stanno tenendo su l'occupazione femminile. Adesso sono 752.000 le lavoratrici immigrate regolari, soprattutto nel settore dei servizi e quindi la cura, ma i nostri figli e i nostri anziani, ma anche nell'industria e nell'agricoltura. E allora ci si può chiedere in questa giornata anche del primo maggio, ben venga l'occupazione femminile delle immigrate, le accogliamo, ne abbiamo bisogno, però perché le italiane stanno perdendo tutti questi treni? E come mai per 1.000 euro al mese le donne italiane non riescono a cogliere queste opportunità che magari si aprono in settori a cui sono forse meno interessati, ma che comunque si tratta di lavori da non buttare via? E qui si apre proprio il problema della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro di cui ci occupiamo oggi. Certo, conciliazione di tempi di vita e di lavoro, e ovviamente di tempo si parla proprio in molte indagini, tempo dedicato dalle donne al lavoro, c'è chi calcola questi tempi. Quali sono questi tempi? Eh sì, oggi le donne italiane continuano a svolgere un doppio lavoro, a casa e in ufficio. Secondo i dati McKinsey, in Italia questo fenomeno è molto forte. Le donne lavorano a casa in media 5 ore e 20 minuti al giorno, rispetto ai loro compagni che lavorano a casa solo 1 ora e 35 minuti in media, e per questioni domestiche o familiari. E questo è un dato molto forte a livello europeo. Secondo addirittura Andrea Ichino dell'Università di Bologna, sommando il lavoro a casa e nel mercato, le italiane lavorano quasi 2 ore in più al giorno rispetto agli uomini, e il problema è che lavorano 3 volte più degli uomini a casa e la metà rispetto agli uomini nel mercato. E forse proprio per questo vengono anche tanto discriminate sul lavoro. Sappiamo che è difficile trovare lavoro dopo una gravidanza, sappiamo che è più facile essere soggetti a mobbing dopo una maternità, e questi sono dati ufficiali. Sappiamo anche che è difficile trovare un lavoro una volta che si è sposate, e evidentemente la società italiana, che ha questo modello di divisione dei compiti così ineguale a casa, fa scontare poi alle donne questo fardello sulle loro spalle, e quindi le donne investono meno di quanto serva nel mercato del lavoro. Però il problema è anche che persino quando poi non hanno figli, non sono sposati, non sono neanche fidanzate, spesso poi sono discriminate anche in quel caso. Quindi c'è proprio qualcosa che non va nella cultura del paese e anche nelle donne, che commettono tanti errori. Ecco, siamo passati appunto da un film a un'istantanea dell'Italia, e ora però vogliamo dire che migliorare è possibile. La situazione in cui una donna si trova in azienda può cambiare, come avviene per qualsiasi lavoratrice, per qualsiasi dirigente. Ci sono alcune indicazioni pratiche, alcune motivazionali che possono dare la svolta e creare un nuovo equilibrio. Ecco, per quanto riguarda le indicazioni che possiamo dare e anche la formazione, che cosa ci puoi dire, Laura? Beh sì, innanzitutto informarsi, fare rete, fare networking, aderire a iniziative che ci sono sul territorio, a livello regionale, a livello nazionale. Una occasione, ad esempio, verrà offerta gratuitamente proprio qui al Sole 24 Ore a Milano, nella nostra sede di Via Monterosa, il giorno 23 maggio, sabato 23 maggio, con Fattore Mamma organizzeremo un Mom Camp 2009, donne, mamme, lavoro e rete, un seguito della giornata della mamma che lavora, e che vuole rappresentare un'opportunità di formazione, di aprire anche la mente a delle donne che vogliono rientrare nel mercato del lavoro dopo una maternità o più maternità e che hanno difficoltà. E quindi affronteremo in una piccola sezione di convegno molto pratica, con un taglio molto concreto al mattino e poi nel pomeriggio con tutta una serie di best practice, l'argomento delle mamme che si auto-organizzano, aprono negozi, aprono piccole attività, imparano a scrivere un curriculum e a farsi selezionare per trovare un lavoro e rientrare nel mercato del lavoro. Quindi Mom Camp 2009, 23 maggio al Sole 24 Ore. Ecco, dalle mamme lavoratrici passiamo alle mamme che sono manager. Anche per questo c'è un'indicazione? Sì, certamente, e bisogna studiare e imparare dai propri errori, perché è difficile cambiare il proprio capo o i colleghi, difficile cambiarne la mentalità, però tanti errori vengono anche commessi dalle donne stesse, che non riconoscono delle trappole disseminate sul loro cammino e ci cadono dentro con grande candore. Queste trappole, ad esempio, sono state ben analizzate da Maria Cristina Bombelli nel suo libro Alice in Business Land, Diventare leader rimanendo donne, editore Guerini Associati. È un libro nuovo che spiega quali sono gli errori più facili da commettere, di cui non ci si rende conto. Perché io dico, partiamo innanzitutto da noi, dai nostri errori, e poi pian piano migliorando, magari miglioreranno anche le organizzazioni, perché poi salendo di grado è dimostrato che più donne ci sono ai vertici, più donne ci sono nell'organizzazione l'organizzazione e più migliora il clima aziendale. E in quest'ottica il Sole 24 Ore ha organizzato un master, BU24, Business Education for Women, un master part-time che comincerà il 21 maggio a Milano nella sede del Sole 24 Ore, durerà 6 mesi, 2 giorni al mese. È un master molto concreto con 7 moduli che partono dagli errori tipici che commettono le donne. Primo tra tutti quello di non comunicare ai propri capi quali sono i problemi che trovano e quindi non comunicare di averli risolti, per cui spesso si arriva al paradosso per cui in fase di valutazione un responsabile, quando deve valutare una donna, non sa che ha fatto. Certo, e poi c'è anche un modo per tenersi in contatto tra donne, perché è molto importante anche la solidarietà. C'è un business social network in cui le donne impegnate in azienda potranno confrontarsi. Su questo appunto ci concentriamo con Cristiano Silenzi, Manager Methods, responsabile della sede di Roma, che ci spiega perché l'idea di una community online, al microfono di Roberta Pelegatta. Perché vogliamo rappresenti un punto di riferimento per tutte le partecipanti a questo Business Education for Women. Fondamentalmente una community online ha gli obiettivi di veicolare innanzitutto dei contenuti di formazione, di aggiornamento professionale e anche di education, e facilitare quello che secondo noi è strategico, cioè un business social network fra professioniste che vivono quotidianamente le stesse esperienze e le stesse situazioni. Potranno comunicare, potranno avere visibilità su quelle che sono le loro esperienze, il loro percorso di crescita e quello delle loro colleghe. Le chiamo colleghe perché, pur non appartenendo alle stesse aziende, le professioniste proverranno da più aziende, però vivono tutte un mondo che le accomuna. Una community ha un valore aggiunto di integrare, integrazione e trasversalità, queste sono le due parole che secondo noi sono fondamentali. E sul sito www.elsole24ore.com/BEW24 ci sarà a breve una demo che chiarirà quelli che sono i contenuti, le rubriche, le informazioni che svilupperanno professionalmente le partecipanti a questa community. E sul versante internazionale possiamo avvalerci di consigli molto importanti che arrivano dall'America, da Kathleen Kennedy Townsend, scrittrice, già vice governatore del Maryland. Ciò che è accaduto negli ultimi 10 anni è dovuto a uomini che rincorrevano solo il potere, senza nessun equilibrio. Quello di cui abbiamo bisogno sono invece donne che sanno prendersi cura dell'ambiente, che sanno prendersi cura della famiglia. Le donne sono molto più equilibrate ed è per questo che abbiamo bisogno di più donne in politica e negli affari. La mia impressione è che l'Italia ha ancora tanta strada da fare. Credo che l'Italia non abbia idea di come siano le donne al potere. Per lungo tempo si è parlato di quanto le donne fossero belle e avete una grande industria della moda, ma c'è ancora la sfida da affrontare per vedere come sono le donne davvero al comando, ed è importante tanto per il paese quanto per come le donne vedono se stesse. E dopo questi importanti messaggi che arrivano anche da Oltremanica, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco.